Waited on the restless wind. Toss on a troubled sea. Turning down a raging storm. Headed for shore, bringing certain calamity. Just when you thought you'd frighten none, can be nothing worse than this catastrophe. Rain down fire and brimstone, carry a stony heart like Pompeii. It's like a funeral of fire. Eyes burn with ash, looking upon Iacon. Blazing across horizons, fire. Feeling something wicked this way comes to town. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun. But it's the hard rain gonna come. Blast you down before you turn to stone. We live in through bad time. It's no lie. Some say they be waiting for the right time. Right time. The far horizon sees still at the sunshine. No matter cause all tides rise. It's all ships at the same time. Since I'm hurling down the street side. Sinking deep below the quagmire. Other mates go down, down, down to no time. What we gonna do? Absolute power corrupts. It's the absolute truth. Lies be the devil's forbidden fruit. Don't you pick a bad batch still in its youth. Living like a bad seed. Making choices, yeah. You just can't see how the outcome destroys and deceives what your twisted heart just perceives. Yeah, I mean, I'd be made of stone. To bring out the worst in me. Sure, I might be made of stone. You're my anchor when I'm sinking. This monster lives underway. On the bottom of the sea. In a cave, no one can see. Or see, or find, or feel me. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun. But it's the hard rain gonna come. Blast you down before you turn to stone. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun. But it's the hard rain gonna come. Blast you down before you turn to stone. Come ogni mercoledì, questo è Port Royal Sporomon. E oramai è sempre la nostra sigla, no? E piano piano continuiamo. Si sa, si sa. Perché io appunto volevo mettere... E non pensare che siamo ancora qui. Boh, ci proviamo. Ai, ai, e ai, pensare ai. Che siamo ancora qui. Non poteva andare meglio di così. E pensare che siamo ancora qui. Ascolto Port Royal e Pirate Radio. One love from Train to Roots, Alta Sardinia. Ayo, boom. Ho appena volta che volevo cominciare in orario. Mi chiedo cosa lascerà. A colpa mia. Questo è Port Royal. Tutti i mercoledì 21-23. Sabbia, rivivere il ritorno come cambiamento, la partenza come... d'estate non c'è tempo per la solitudine. La lascia a casa insieme a tutte le bollette, nelle giornate che trascorri sotto il sole puoi dimenticare tutte quante le promesse fatte. Dai, bella regà, so brusco, sostengo anch'io Port Royal e Pirate Radio, questo è il mio ultimo singolo, Barcarolo Romano. E dai, bella a tutti, bella Bru. Quanta pena stasera. Davvero? Sul fiume che fiotta così. E il fiume sta pure lontano. Disgraziato chi sogna e chi spera. Tutti al mondo dovemo soffrire. E poi di problemi tecnici. Questa la riacchiappiamo da casa. Barcarolo Romano, nuovo singolo di Brusco. Bella ragazzo, brusco, sostengo anch'io Port Royal e Pirate Radio, questo è il mio ultimo singolo, Barcarolo Romano. E dai, appena stasera c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire. E se un'anima cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. E Barcarolo va controcorrente, e quando canta l'eco si risente. Se è il vero fiume che tu dai la pace, fiume affadato. Siamo diventati equilibristi, camminando sopra i San Pietrini, siamo pronti a tutti i tipi d'imprevisti. Tra le preghiere dei preti e le bestemmie dei tassisti, tra i politici ignoranti e nei turbini assenteisti, c'è gente di tutte le fedi ma prevalentemente romanisti. Era la città dei santi, ora invece è la città dei sinti. Siamo lì più cacciaroni, siamo arroganti ma non siamo finti. Siamo più belli davvero dei come vittori ci hanno dipinti. E Barcarolo contro corrente, e quando canta l'eco generazione. Ne affisse le giovani coppie e parlavo di qualche milione. Scambiasse promesse d'amore, scambiasse sul fiume un fiume di parole. Ne affisse di gente embriaga, ammazza quanto hanno bevuto. Qualcuno c'è pure caduto, vabbè. Qui prima ci si nuotava e prima ci si navigava. Mo c'è solo qualche barcone. C'è un angelo sopra un castello e pure una vecchia prigione. E quando è una bella giornata, di quelle che luccica il sole, che bello che fa colazione, gabbiano se magna un piccione. Capirai devo andare alla posta con lo spirito del gladiatore. Te saluto per l'ultima volta, core chiama un prete per l'estrema unzione. Il turista ha sbagliato stagione, si è fatto l'estate romana, si fa il bagno nella fontana, in cappuccino con la matriciana. E noi che dopo il cappuccino sapete tutti come andava. Lo famo un biaca col vino e poi lo dissanguiamo come una zanzara. E barcarò sbagliamo a Bergamo al One Love. Namo namo, dopo il cappuccino te lo fuma marijuana, poi nella dancehall bim vai con un'altra canna. Andavamo a villa, aveva gli occhi come un panda, ma che combinato in giro gli chiede la mamma. Dopo tutti all'università con molta calma, c'è chi ce l'ha fatta ma anche Otello è in gamba. Ora si lavora sì ma non ci si affanna, corre dopo il tempo per gli amici della gancia. Al cinema Top Gun fumavo calabrese perché ancora non c'era skunk, compravo libanesi a meno del 2 scudi al grammo, morivo dalla voglia del sentirmi sciabaranz. Bam bele bam bam, giovedì alle danze, ho preso il microfono e sono uscito dall'infanzia. Anche se non esce mai chi se fuma la ganja, passami lo spliff come Peter Pan. Bam bele bam bam, non in vecchia Otello fuma l'erba della giovinezza. Pa pa pa pa pa pa pa, non in vecchia mai chi fuma ganja. Brucia Babilonia, mo se va, siamo qua. E chiedo un piccolo temauta a sto grigione per vedere com'è fuori stamattina se c'è il sole. Oggi cerca un tocco di colore per la fantasia che ogni giorno in questo mondo muore. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un sound della sua strada che è fatta di sogni e di idee. Otello again. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è Otello è la sua strada che è fatta di sogni. Viene da Roma, Roma se non la sa, tutta l'Italia sa guasta, una dance solo al giorno non basta, il reggae piace come la pasta. Viene da Roma, Roma mo è festa, ah, ah. La guardia ormai non la resta, è tutto a posto, ha una richiesta, vuole Bergamo coi dreadlock in testa. La gente mi saluta con go shot come a Fallucia, sta chiù lo sai che brucia come il pane con l'anducia. A Roma, Palermo, Bergamo lo sai pure a Perugia, donna mo andiamo c'è un sound e una BB che se strucia. Non amo conquistamo, non se spaventamo, chicco tu c'è pezzo ma lui c'ha le bombe a mano. Giorno dopo giorno adesso guarda quanti siamo, e mo voto Otello come premier italiano. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. We'll be right back. cominciamo a entrare nel mood. Ringraziamo ancora Brusco, sia per lo speech che per sto re-pitch del Barcarolo Romano. Con me sfonda una porta aperta, insomma. Questa è la prima traccia, Fifri Dub version. In the shell, nella conchiglia. Rampoghetto. Ce lo spiega Paolo Baldini, eh. E ci andiamo a sentire un po' di tune. Questa è solo la prima. Serve solo per intro. E allora welcome in the shell e welcome a Paolo Baldini, uno dei più grossi produttori e musicisti più importanti della scena, di qualsiasi scena in realtà. Terzo lavoro solista, a differenza degli altri è un pochino più, cioè, originale, proprio partito dai riddim. È un po' particolare questo lavoro, mo ce lo spiega Paolo Baldini. Ringraziamo Teresa, Rainit, Tempesta Dub e ovviamente Paolo, lo salutiamo e ci andiamo a sentire quello che ci dice. Sì, questo nuovo lavoro, In The Shell, si differisce da tutti gli altri perché è un lavoro che nasce sostanzialmente da dei fogli bianchi. Ecco, per la prima volta non mi sono trovato a lavorare in post-produzione declinando dub version di produzioni precedenti, ma sono partito proprio da zero. E ti dirò di più, questo foglio bianco, il primo elemento che è stato messo per stratificare poi la produzione, e sono stati tutti elementi acustici, ambientali, registrati nei miei viaggi in Africa, che sono stati, diciamo, proprio il punto di partenza, il focus centrale, il kickstart di questo progetto. Infatti sono stato anche condizionato da BPM anche inconsueti a provare a fare cose nuove, ecco, usando poi come vestito sonoro tutto quello che ho imparato dalla tecnica del dub, del reg sicuramente, ma procedendo in direzioni inattese. E sono arrivato. E a tal proposito, come sono arrivate le collaborazioni? Questo disco è ricco di collaborazioni, anzi, ce ne andremo a sentire più di qualche tune. Come sono nate? Le hai pensate già così? O a mano sono nati i ritmi e poi le hai pensate per le collaborazioni? Diciamo un pochettino, un po' alla volta. I pezzi sono nati, cioè i beat sono nati indipendentemente, sono nati proprio come esercizio di scrittura, come beat making, atta a fare qualcosa di ritmico e suggestivo. Poi, ecco, strada facendo, mi sono preso la briga di collettare le conoscenze e tutti gli artisti che in questi ultimi anni, secondo me, si sono distinti. Sicuramente Kabaka, Quino Miga, Anthony B, ma anche e soprattutto, oltre diciamo, ai gloriosi cantanti della mia squadra e della, diciamo, legati alla Tempesta Dub, ci sono i nuovi esponenti della dancehall, Lasai, Zachiman, che sono uno spagnolo, l'altro portoghese, che sono, diciamo, gli artisti che stanno facendo un pochettino la differenza tra le nuove leve. E poi anche artisti giovani, diciamo, rispetto al consumo della loro musica in Europa, come possono essere Blue, Five Star Celestial, Minori, sono artisti che non sono ancora molto conosciuti, ma che secondo me hanno delle skills veramente notevoli. E quindi è stato naturale, un processo naturale quello di coinvolgerli. E sono stati coinvolti quando il beat aveva preso già una certa forma, e solo successivamente, cioè io stratifico, diciamo, la proposta per poterci cantare sopra, per renderla più comoda possibile al cantante, poi una volta che ho ottenuto la voce viene tutto cucito su misura rispetto a poi chi lo indosserà, l'abito. Allora sì, diciamo, e allora ci andiamo proprio a sentire Shilling Kinky. Beh, comunica. One and I'm Shilling Linky Kicking. Yeah. Could I pick a better title? Never did. La science aki man them fit fi make a hit. Beg your door, skip the one ya. Press one repeat. Shilling Ling, Shilling Ling, Shilling Ling. Shilling Ling, Shilling Ling, Ling Ling. Shilling Ling, Shilling Ling, Shilling Ling. Mellow Mood. La sai. Zaki man. In the Shell, Paolo Baldini su tutte le piattaforme, lo sapete, no? Watch Anobika, bang. Watch Anobika. Think we done, we come back like Phoenix. Original tune, this and the remix. Dope fires, new style, rhythm hot, in it. In it. Watch out for this year squad. Zaki crazy, last time out. Pablo, pick up me comrade. When I we took it a big bad enter ranch. Bang, bang, bang. Shilling, shilling, shilling. Shilling, shilling. What your name, shilling? Shilling, shilling. And style when me flop and reading, ay. Kiki king, kiki kiki king king. What's a dance? Kiki king, kiki kiki king king. What's a dance? Kiki king, kiki king, kiki king. Anywhere we go, promote a ball of a we, ay. Hard like liquor, yeah, with no chaser. This a one you hard bone like a laser. When me come and dance, fire go blazer. Give them electric shock like a teaser. Back at it, cause we not give up, we not quit. Now we back at it, pull a we together. See that tune full of property. When we are gather, yeah, we have to do it properly. We are your property, we turn up on the tatami. Just like a samurai, we kick up every part of it. Whether me in a New York, London, or Miami. Just like a carnival truck, we my follow we bring the remedy. Yo, mana bless. Shilling, shilling, shilling, shilling, shilling, shilling, shilling, shilling. Shilling, shilling, shilling, yeah. A fresh new style we a bring. For me sing, kiki king, kiki king, kiki king. Feel we sound it at top ranking. Girl a scream every time and I sing. Oh what a thing, oh what a thing, oh yes. Say we never stop the progress. Bust up the arena, say that at the process. Oh yes, so we a little success. And make sure that everything bless. Everything bless. Shilling. Some of them say we look like Milli Vanilli. Some of them go after we say we silly. Some of just laugh. Some of them act. Many of them go on like really. Nobody mind them about mine. In them area we are the crime. Trust me, no, we just a bring it in full of vibes. No fine. and your name, Shilling, Kiki King. Them a go say it don't mean anything. Every hand up in the ear, every shoulder for your fling. Kiki King, Kiki, Kiki, King, King. Kiki King, Kiki, Kiki, King, King. Kiki King, Kiki, King, Kiki, King. No winner, Skylar King. One missing. Doppia vela me senti, doppia vela me senti. Vediamo un po' che ci dicono la regia. E continuiamo con l'intervista a Paolo Baldini, sperando che si senta tutto. Questo era Shilling Kiki. Un lasso di tempo così lungo era un po' una specie di provocazione, in quanto sì, è vero che negli anni, ogni anno ho pubblicato. Scusate, a nome mio. Ho chiesto a Paolo come mai sono passati 8 anni dall'ultima pubblicazione. Ce lo andiamo a risentire da capo. Di provocazione, in quanto sì, è vero che negli anni, ogni anno ho pubblicato diversi dischi a nome mio, riferiti magari a etichette come la nostra, su dub version di Melmood, Forelock, Compagnia Bella, o lavori per altre etichette come Pressure Sound, Echo Beach. Molto materiale è uscito, però questo è un lavoro che fa riferimento a, appunto, come dicevo, a cose nuove che sono partite proprio da zero, e quindi lo considero sì il mio terzo disco, ma sostanzialmente forse anche il primo disco in cui tutto parte da zero. Ecco, ho passato questi ultimi mesi a destreggiarmi tra le produzioni in studio e i live, che comunque non sono mai mancati, in quanto fino a qualche mese fa eravamo ancora in promozione per il disco dub dell'ultimo album dei Melmood, Magnana Dub, e con il quale ho condiviso con loro il palco in diverse date, con Dubfile presente a Magnana Dub. E in studio, sì, insomma, il lavoro su questo album, essendo un lavoro personale che riguardava della mia musica, si è insinuato nei lavori che poi sono stati portati avanti negli ultimi 2 anni passati, e dei dischi che sono usciti, tipo appunto Melmood, Tre Allegre Ragazzi Morti e altre cose che non ricordo al momento. E allora lasciamo un po' di tempo a Paolo per ricordare altre cose. Nel frattempo andiamo avanti, ci andiamo a sentire un po' di collaborazioni, diciamo 2-3 tune, poi passo la palla, e allora partiamo così. Nice and Easy, Kavaka Pyramid, Melmood. Nice and easy now, reggae music it a pleasing now. In the shell, nice and easy. Paolo Baldini. So we rockin' when the vibes start flow. Nice and easy. Play the music. Tempesta da. Nice and easy. Keep it rockin' when the big sound play. Nice and easy. Every woman has a move them ways. Bassline a shake up the place. Yes, I saw the tingo. Every domingo. We play with the lingo, keeping it simple, feel a laringo. Flow better than crime, lyrically sick, man, I cough right. Don't give me no fret, kill it with my lines, when I bush right. Go on with Valerie, my gun a couple calories. My dance shoes and my wallabies, we not no move like no wannabes. Something I no love for the music, yeah, them I just come for the cannabis. And I preach every 2 seconds, but when I record, boy, the nice irony. And easy, nice so and we easy. Rockin' when the vibes start flow. Yeah, yeah. Nice and easy, play the music when the rain. Reggae music on my heartbeat. From me in a school and me still in a me khaki. 13-year-old and I step in at the party. Nah, no license and T-phone, me mother can't keep. Now me get older and me still a go a dance. Like Christopher Ellis vibes, I kick like over Mars. Just dance on your feet, no time to sit like Rosa Parks. When that the sun a shine a overcast. Take it nice and easy. So we rock it when the vibes start flow. Nice and easy. Play the music when the rain or snow. Nice and easy. Keep it rocking when the big sound play. Nice and easy. Every woman does a move them waist. Bassline a shake up the place. Say we glad, say we out and I just a moving now. Remedy, remedy, remedy this, your dance go fix your heart now. Let go the stress and that's what we all are come down for. Boy, now we come a dance or put a puno lighter. Big up this selector and the operator. Mellow mood we day alongside King Kabaka. AKA the lyrics got the innovator. Nice and easy, so we rocking when the vibes start flow. Nice and easy, play the music when the rain or snow. Nice and easy, keep it rocking when the big sound play. Nice and easy, every woman does a move them waist. Bassline a shake up the place. E continuiamo allora con le collaborazioni di questo disco. Poi ci andiamo a sentire le ultime risposte, le ultime domande e le ultime risposte, almeno per questa sera, eh. Ah, Paolo. Deep Meditation. Tell them no. Anthony B. Different strain. Feeling higher than the plane. Walking in a different lane. Cause the system can't get to me brain. Rasta man, I want deep meditation. Deep meditation. Deep meditation. Rasta say a time to raise your vibration. Yeah. Deep meditation. Deep meditation. Deep meditation. Right now we live in a higher dimension. Yeah. So make we blaze the chalice fight. We got no time for fuss and fight. No matter if you're black or white. It's time to show some love, we know what hate is like. Yeah. So make the marijuana blaze. Load the cup and let's give thanks and praise. We see the rhythm here, the drum and praise. Every time I light the chalice, it is smoke and race. Deep meditation. Deep meditation. Deep meditation, Rasta say a time to raise your vibration. Yeah. Deep meditation. Deep meditation. Deep meditation. Cause we live in a higher dimension. Meditate for what tomorrow bring. Listen me queen and me say listen up king. Meditate before you do anything. Cause everything from outside come from within. So what time for you set your mind free? And no time for you move off key. You can be the things that you wanna be. You want the master of your destiny. So deep meditation. Deep meditation. Deep meditation. It's time to raise your vibration. Deep meditation. Deep meditation. Deep meditation. Can we live in a higher dimension? Oh, altra collaborazione di eccezione. In Omega. Quanto è bello sto disco qua. Port Royal tutti i mercoledì 21-23, come dice qui in Omega. Bornamo il Vaticano e Bornamo Babilonia. If you know what, stand alone. Ci andiamo a finire l'intervista. Ciao, Paolo Baldini, direttore artistico. Beh, nella Tempesta Dub siamo tutti direttori artistici, perché la Tempesta Dub in questo momento è proprio, insomma, un'etichetta, una società di cui facciamo parte io, i Mellow Mood nel senso stretto, i due gemelli Jacopo e Lorenzo, Giulio e Manuel, il nostro manager. E, nasce, è nata nel 2014, nasce con l'esigenza di dare uno spazio editoriale al primo disco che feci, a nome Dubfile, appunto, disco omonimo del 2014, e all'epoca era sostanzialmente uno spin-off che nasceva sotto il cappello della Tempesta Dischi. Io per la Tempesta Dischi, già dal 2009, insomma, sono uno dei produttori, ho prodotto tanti dischi, tanti progetti, sono soprattutto legato ai Tre Allegri Ragazzi Morti, di cui produco i dischi, e questa cosa è andata avanti fino a che abbiamo aperto, diciamo, le porte a tutte le produzioni dei Mellow Mood, produzioni degli Forelock, Andrew Eye, abbiamo prodotto il progetto Dolomites Rockers con Imperial Sound Army e Danai, e recentemente ci siamo resi formalmente indipendenti dalla Tempesta, con cui continuiamo ad avere degli ottimi rapporti sia di umani che artistici, ma siamo sostanzialmente un'etichetta in questo momento indipendente che si sta aprendo anche la possibilità di distribuire altre realtà che non sono strettamente legate né al mio studio né alla nostra cerchia stretta. Una su tutte in questo momento i The Stranger, che sono appena usciti con il lavoro nuovo, che sono molto giovani ma che rappresentano un bel esempio in cui i giovani italiani possono identificarsi direttamente, ed è una cosa molto buona se ci si augura che questa scena cresca e continui a crescere. E allora ringraziamo Paolo Baldini. Vi ricordo In The Shell, disponibile su tutte le piattaforme. Ringrazio Teresa, Ranit, The Production Edizioni, vallo a sapere. Andiamo a sentire ancora un'ultima tune dal disco In The Shell. Questa è Mata Mata, Andrew Y, Forelock, Kiji Man. E poi passo la palla a Osh Selecta. Ne metto un altro paio, eh. Non te preoccupare. Mata yeah. We'll leave a music with ear, no ideas. Now come run with it, quick, we are take it to a higher level. Higher than Kilimanjaro. Up like seven. For a lock job. Cage man, yow. Making another ante like Maryland. Welcome to this Dope File seminar. Mr. 0564 Lancer Messenger. Pablo Berg, yo. Bring the rhythm. Nobody think twice, be the shit. Almighty tone in a music machine. Meditation, me a keep it clean. You know what I mean? Hold on, style your heart to dance. Step away, I fry up in a pan. Every woman, every man, help you see this one. Chant it all out and galang, galang. Matama, matama, matama, matama, matama, matama, mata, yeah, yeah. Wally pa music, where you know what days. I come run with the quick, quick. We are take it to a higher level. Higher than Kilimanjaro. I cope like seven. We never left it up with their ass up. Down in the studio, talent chef cook up. Married to the music, there no brain up. Pick a thing, Mr. Vibe, can't stop. Easy for ready like Domingo. Me love for mixing up with lingo. Spanish with a little gringo. Don't tell you no so the tingo. What on? The style you hotter than. Look how you fry up in a pan. Every woman, every man. Help we sing this one. Chant it all loud and galang. Per me la musica esplode negli occhi miei. Poi è da Osh. Baciami nella e subito dopo smash. Più fuoco again. La notte porta il sole sui passi miei. E ancora come quando amavo solo lei. Solo lei, solo lei. Port Royale tutti i mercoledì. I tuoi DJ. Pirate Radio. Bombo, clats, tu fuoco brucia come lava. Non dormiva, si riposava. Non ce ne obblighi, compiti, covid. Già si mudò comunque a mezzo casi. Condomini così non ne può stutare. Ehi, hey, l'inferno lo taglio con una spada da una galassia lontana. Lo scudo protegge la mia fiamma quando il silenzio mi chiama. La mia penna e la melodia fanno foto del mio panorama. Lascio il vuoto e vieni con me. We are gonna mash up your place. La danza mo' una nuvola purple, ehi. La musica esplode negli occhi miei. Baciami nell'alba, scordati chi sei. Più fuoco again. La notte porta il sole sui passi miei. E ancora come quando amavo solo lei, solo lei, solo lei. Questo sound uccide ancora i tuoi DJ. Facesse volo dal Fofino al Nilo, riparto da Nolo, la Iubona. Gioco senza ruolo, ma non gioco solo, do gloria sto suolo Maradona. Questo flow non lo compri, compa, c'ho manichilla di nuovo in città. Chi se reggae musica non ci su scusi, se la vivi scordata ripassala. In già sa danza, bruciano storie di eroi e veri son boys. La stanza del tempo non chiude mai buoni, we are la King Roy. Il cielo è un disegno, coloralo e vola più in alto che puoi. Lascia tutto e vieni con noi, we are go mash up the place. La danza mo è una nuvola, purple haze. La musica esplode negli occhi miei. Baciami nell'alba, scordati chi sei. Più fuoco again. La notte porta il sole sui passi miei. E ancora come quando amavo solo lei, solo lei, solo lei. Questo sound uccide ancora i tuoi DJ. Sto fuoco brucia come lava, non dormiva se riposava, non c'è né obblighi, compiti, covid, già siamo dovunque a mezzo casi, condomini, così non ne può studare. E io guaglio sin, Giomana Sesso, Port Royal, Pirate Radio, ogni mercoledì, onu sai, big up onu sai, andiamo mo! Con questa vi saluto, vi do l'appuntamento sabato, partirò per Bologna. 27 Twinkle Brothers, sempre a Bologna. 28 mi trovate in piazza a San Donato. Faccia di chi, antenna come un minareto, canta l'idea. Del 18 maggio con Buna, poi ne parliamo. Ciao a tutti amici, sono Bunna di Africa Unite e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Port Royal e Fire Upon Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la Reggae Music. Yes, I! Ruggine, penna di velluto, le calligrido. Altro che l'azza. Colpire la memoria, riscrivere la storia. Pecora, le mille denti schiuma dalla bocca. Vediamo se dalla regia mi dicono che sono pronti. Così passo la linea. Amarino, ci sei? Ok, allora Amarino c'è. Chi l'ha alleato e chi per propaganda elettorale hai bombardato. Piano piano abbasso. Sincero, chi non merita più stima o dire onore del... E piano piano saluto tutte e tutti. Con quale nuova droga si faranno i bambini? Rusta. Vabbè, mi sono scordato pure il 9 maggio Rasta Lady, Alcelli Brown. La pelliccia del... Però è arrivato solo fino a fine aprile. Ricco. Il primo maggio è una bella scampagnata alla cavua. Cassette USB da beve e da mangiare. Che ancora se possono. L'hanno fatta davvero la ruggine. Le saluto e vi ringrazio. spacco ginocchio e vero mentre balza dentro trono. Apro la gola e spiro forte senza dolcire. Passo la palla vero, amaro, senza al mio fratello Osh. Bless up yourself. Questo è Port Royal. Tutti i mercoledì 21-23. E yo, yamu mo! Big up Fire upon Babylon Scene. Qui Joman rappresenta per Otello aka Towali, Pietro aka Osh, Emmanuel aka Smash, Ilario aka Ilario. Oh, non sai! Senta quello mostro sound che spacca tutto quanto, sin! Joman Attilio! Aha! Yamu mo! Stick it on, Fire upon Babylon. Stick it on, dan, stick it on, dan, stick it on, dan, dan, dan. Senta, buon umore! Se vai avanti senza scordare mai, saprai da dove vieni pure dove vai. L'hai fatta lorda, ah no, ma tanto tutto torna tra un po'. Lo sai che Smash è hype come l'original dancehall style. Sta febbre che c'ha Osh no, non passa mai. L'hai fatta lorda abbastanza, ma tanto tutto torna come i 90. Femino gyal, wine femino. Amo suona vaia bon Babylon. Sto in Jamaica anche se non vado a Kingston. Ci sono Ilario e Towali, impazzisco. Ribadisco che non cambio gusto, manco se mi paghi dritto come un obelisco. Denso l'unica lingua che capisco, 90 lo stile che preferisco. Non dire mai che è finita, finché non è finita. Fai a Babylon, la pista non è mai vuota. Pensavi fosse tutto game over. E io senta promo, fai a Babylon, sin! Ti controllano e telecomandano, sulla tua vita decidono, ti dirigono. Fai a Babylon, ti controllano e telecomandano. Se loro dicono, dicono e fanno tutto quello che vogliono, ti controllano e telecomandano. Sulla tua vita decidono, ti dirigono. Senta promo, ti controllano e telecomandano. Ma chi controlla i controllori non lo so, sentamo! Mi giattano come una massa e chi si sempa. Contano su becchini che si scordare i diritti memba. Fai a bomba Babylon già tu di samo tu ripeta pa seconda. Mintano mano solo dove vita non li interessi. Compa Tawoli non è Nucana, non si chiama Alessi. Ilario non è un numero umano, voglio una chi sentimenti. Volerono Mash e Smash, fossero in catalessi. Fai a bomba Babylon ti ripiglia come uno pugno un tedenti. Ti controllano e telecomandano, sulla tua vita decidono, ti dirigono. Fai a bomba Babylon ti controllano e telecomandano. Se loro dicono, dicono e fanno tutto quello che vogliono, ti controllano e telecomandano. Sulla tua vita decidono, ti dirigono. Senta buonomo, ti controllano e telecomandano. Ma chi controlla i controllori non lo so, sentamo! E io Fire upon Babylon, sin, original Joman Attilio. Oh, non sai, only good vibration, sin. Senta buono, chi sa vibra, chi ti dona, vibra chi ti viaggia, a vibra chi ne manca, oh, non sai! Yamumu! E ritorniamo in diretta, questo è Port Royal, cambia i controlli, un salutone al mio fratellone Taweli e un salutone all'altro fratellone DJ Smash. Salutiamo e ringraziamo Paolo Baldini per l'intervista, ha menzionato anche le sue tante collaborazioni. Io volevo partire con un pezzo nuovo appunto di una delle tante produzioni anche di Paolo Baldini, sono i Mellow of Mood con Clementino, produzione italiana Little Lion Sound. Up at the mountain top, down the valley, we have it in lock. Little lion, but with the biggest heart. Boom. Free we, and with them crazy bullet can deal with. Free we, oh Lord, them no like we from we born. Dammi tutta che la cama serve, fa una canzone sotto a questa luna. O tempo passa ma nessuno sente, dico ci lo stavo con me. Chica non voleva giocare banata a volta, tienda sta forza caccia piglia siamo fuoca. Real make love rinda che sta vita loca. E mamma mia, oh mamma mia. Tutti i giorni vi restiamo così ma don't worry. E mi zavisce vedi sti barricata. Fora sti tombi, lirica sputa faia del sud qui. Da Napoli fra picciata ma non malavo. Clementino! Vedi che rivalità, affari sulla mia città. Vedi l'Italia che va con i vicoli, i popoli e chi se ne va. Musica che non ti passa di moda, signore e signori, le mille faccette della società che rimbombano nella mia testa qual è la verità, fra. We, are we them crazy boys that can deal with? We, oh Lord. Them no like we from we born. We, are we them crazy boys that can deal with? We, oh Lord. Them no watch like it, we from it, we born. Hotter than lava, shot man of the ultimate barber. Magical for Harry Potter, lyrics so sick on the doctor. Say we giving it to you properly. In a style and a pattern, my ragamuffin no drop, a regular green like a back of me rada. String up a sound, dance it down and do not no bada. Come run with a bag, I me no matter, death to the clanta. I lick a lion's owner, them I have the reggae factor. Give thanks to the father for blessing me and my brother with a chakra. Tengo todo lo que necesito, ando, ando, pasito, pasito. Light and fresh and good like Lino. The older me get, the better like Vino. Free we. Them crazy bullet can deal with. Free we, oh Lord. Them no like we from we born. Free we, are we them crazy bullet can deal with. Free we, oh Lord. Them no like we from we born. Pre we, Babylon got man literally and them gone. Killy, clack, clack, bang, bang in our dreams. Them no want to see love, said them one with dreams, silly dreams. But red that the fire, I comfy burn everything. Smallish, but man a strong, man a run things in every tongue. You know that cocky never me party, come on, sweet fire in every song. Enough of me answer, cause I me plan. Me mean it, give me no man. We say little lion, but with the biggest heart. Well, in comes the musical tinker. Kabaka to the pyramid alongside Natalie Rise once again pon them. Oh. I will say whoa. Whoa. Say whoa. Whoa. I will say whoa. Whoa. One question we have for them. What's going on in this world? It's like something is wrong in this world. From the moment you're born, yeah, you gotta be strong if you wanna live long in this world. So we're moving on. If you want to be free, you're not stuck in a colony. Rebel with a cause, ready to defend my family, my land, my tradition and my culture automatically. Rastafari teach you unity and solidarity. Love for everyone embedded in my personality. Even though they want us to be just like a cavity, we still have come together no matter we nationality. Hey. In diretta, questo è Porto Royal, quarta stagione di Porto Royal. E un salutone a tutti gli amici che ci sostengono nella chat di appunto di Telegram di Pirate Radio. Un salutone a tutti gli amici di Reggae Mania e Kawa, appunto con venerdì il loro appuntamento, appunto Reggae Mania dalle 21 alle 23. Un ringraziamento soprattutto a tutti quelli che ci sostengono e vogliamo ricordare che appunto Pirate Radio ha sede fisica in quel del Brancaleone, da dove trasmette non tutte le dirette ma quasi tutte le dirette, e appunto siccome il Brancaleone come tanti altri spazi di Roma in questo periodo stanno subendo diversi attacchi, noi continuiamo nel nostro piccolo a rivendicare certi spazi, quindi più spazi sociali e meno centri commerciali. Shining bright, you know. Oh, yeah, oh, no. Light it, light it, light it, light it, light it up. Put it in the air and let it go. Oh, yeah, oh, no. Can you feel the love now? I'm feeling a buzz now. Never gonna calm down. Piece it all together. Nights like this, they belong in a Guinness. Like this, never wanna not finish. Don't wait for the endless start, the beginning. di problemi tecnici, ma chi non c'ha problemi non se la gode. Had to make it out the red clay. Lord, and you know how I stay high but I'm low. I do not know where to go. Calling on you, I do not know what to do. How do I get back to you? I got a story of glory to tell. I was like Jonah and belly of whale. God had to get me and sit me in dirty as filthy and grimy as slimy as jail. I had to pray on bent knee and repent. Lost every dollar but got me some sense. Woke up cold sweats and I'm shaking at night. Woke up and realized that mama was right. I had to run from the wrong to the right. I had to run to the sun and the light. For if I should perish, my kids will have nothing inherited, and that'd be the devil's delight. See, I want the wisdom of Solomon, kingdom of David, my bloodline, the birthplace of Christ. God don't like ugly, I ain't one to judge. Whole lot of gold, Cubans with a ton. Say I kept it solid when it's all said and done. All I know is keep going, run, better run. Mama told me never fold, run, better run. Like Jenny told Forrest Gump, run, better run. The race for freedom ain't won, run, better run. Had to make it out the red clay, run, gotta run. In diretta, questo è Porto Royal tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 con tutti i vari problemi tecnici, ma andiamo avanti. Questa è la quarta stagione per noi, quattro scappati di casa che vanno in diretta così, ognuno da casa sua con questa nuova modalità, e proseguiamo quest'altra oretta scarsa di puntata. Per Porto Royal. Your man is digital demolition, man. I tell them more fire. That's what we require. He not take no time for more no time empire. More fire. That's what we want. We dey ya now for burn down the dance. So me tell them say more fire. That's what we require. He not take no time for more no time empire. More fire. That's what we need. We burn out all Satan dread. Well, I man say no big up all the people in the place. All light a crow, all jump up massive, for real. It's not a bargain or a deal. When they get me, when they get me, some tell them no, some tell them for ya. When they fake one, they play as dumb, give me the shot, they put their mind kind of eyes, do what I'm seeing, yo. For ya, when they fit a coach and lighter, right now, me, you something for tell the people, they got this and they better better master more time up. Tell them better mind, they're going for chop up. Tell them better video, for the video, my rap, let's go. Better better master more time up. Tell them better mind, demolition man, right now, man, I'm on the babe, man, I'm in a competition, man, I come to MC, do a nice obsession, you look, man, no digital, you're some, we have a fun, no one, and the war, they want to light a flash, you talk, play that, you're gonna rust them, I'm on the digital, Robadub style, this a Robadub style, Robadub style, in your stereo, yeah, Robadub style, this a Robadub style, them not believe we set the train, and so we earn them. Yes, we are gonna purge them, and so we serve them. I went on dead, now that she wears up. What goes around must come around, so we build a rock for. We lock the blood too. After the first, them I get the part two. Robadub style, this a Robadub style line. Travel, travel. ages. Rastafarian armies, war is in the making. Survival of the genre, G's get the easy. You must be ready, it's in the ready. We got the yayo, we got the paper and the from 20k, yo. We move already on it, look to the future. To be extraordinary, the youngest legendary. Lyrics like dictionary. Rub-a-dub style, this a rub-a-dub style. Ultime ciun per me a seguire DJ Smash. Some borrow argument and listen to me speech. Rub a dub up on the beach and I owe me a go reach. Shame and pride, me no half eternal leech. Big dance it a keep them a skank off them feet. Rub a dub style, this a rub a dub style. Rub a dub style, this a rub a dub style. Rub a dub style, this a rub a dub style. Dancing all night. So I said, cool down the pace for me, little woman. You're going too fast for me. I said, cool down the pace for me, little woman. That's not how it should be. A Dabba Dabba exclusive. Fire from Babylon. Big up Otello. Big up Bosch. Romana Massive. Humbuckla. Ring the alarm. Another sound is dying. Ring the alarm. Fire from Babylon is roaring. Lasciamo pop pop pop. La forza di sta musica non è scorre nelle vene, sai. Più forte delle bombe, lo stusano si diffonde, non si ferma mai. La forza di sta musica non si può fermare mai. Non guarda il colore della pelle, ma il cuore mira dritto, sai. Sto mondo togliendo a non pare tutto con manna. Nulla forza di sta musica ci salva. Ne dona coraggio e spirito per tenere alta la fiamma. E questa musica che ci mantiene a galla. Ne riempie ogni minuto, ogni giornata che passa. Guarisce ogni sconfitta e amaro che lassa. Nulla forza di sta musica ci salva. Ed è sta musica che ci mantiene a galla. La forza dagli umori si sprigiona ogni mattina. Te cieca come il sole che se toglie la fatica. Fai a boom Babylon tutta la loro vita. Immagina ogni cosa come fosse una ferita. A me sai me sembra facile agli innanzi su suo mondo. Qua invece chi non veste brato oppure non ha un conto. Si sente un diverso tra la gente che c'è attorno. A noi altri basta poco e stiamo bene con un sogno. La forza di sta musica non è scorre nelle vene. Ne sai, più forte delle bombe, mostro sound, se diffonde non si ferma mai. La forza di sta musica non si può fermare mai. Non guarda io colore della pelle, ma io corre di radri tu sai. Mi piglia buono con sta musica che scorre nelle vene, Piotello e Peroscia, questo quello che gli appartiene. Appena si rizzano ogni mattina cliccano sulla rete, per loro è una fede. Mi piglia buono quando osce seleziona, buono quando Dello seleziona, buono e piglia buono a tutta Roma, buono, yeah, yeah. La forza di sta musica non è scorre nelle vene, sai, più forte delle bombe, con sto sound si diffonde, non si ferma mai. La forza di sta musica non si può fermare mai. E noi non la fermiamo, facciamo solamente un cambio, cambio i controlli. Un salutone ancora a tutti e tutte, buon proseguimento. DJ Smash ai controlli, un salutone a Taueli all'ascolto e a settimana prossima. DJ Smash! Come il fuoco mi dà i contorni del buio, come corda che lega ma non stringe più, un incontro rapido che fa straripare la mia mente, brividi e passione assolvono le colpe che ho. Non andare via, rimani qui stanotte, non parlare più, so cosa pensi. Non sei sola, cerca dentro te. Non sei sola, c'è calore, come lo vorrei. Sì, come l'uglia che ho qua. Non sei sola, sotto la cenere si sta svegliando. Quel calore ci scotterà. Mo senti a me, ehi, te senti a sola, ma non si sola. Guarda dai in giatti e poi a bessire sincera. Non stai a sola, non te sentire sola. Cammina innanzi a me, non fa passa stasera. Non c'è del nuovo calore, come qui giocali a voi. Sutta la scena del fuoco, cane scarpa siete voi. Vicino a me, che ho a te qua e tutto tuoi. Non te sentire sola, chiama a me, non me ne ho più. Non sei sola, cerca dentro te. C'è calore, come lo vorrei. Così ne muoia qua, come la roccia dello fuoco ne consumamo. Arde per lo cuore, li pensieri catenimo. Scarpando lo tempo della notte che passa piano piano. Vecchi sulla luce, con ne capimo. E non c'è che voglio con ne sconimo. Qui ti casimo quando tutti e due ne amamo. Delle paure catenimo, ne sfugliamo. Così insieme su momento lo vivimo. Ma la passione forte che ne face impacire. Purunque all'uncia mille cose non stanno a scire. Emozioni con parole non si potono spiegare. Poi se stiamo insieme se potono capire. Usando sto momento per l'amore, facciamo di sta notte una notte speciale. Se non voglio qua usando sto momento per l'amore, un vincianna sulla cosa con piacere a qua. Non sei sola, cerca dentro te. C'è calore, come lo vorrei. Senti me mori, cercami c'ha il cuore. Castavo sempre già con cerco calore. Pitucca solamente te me sai dare. Pitucca finalmente mi ha fatto capire che a nulla distanza mi può separare. Quasi tu tu le chi già te posso toccare. E se tu c'è provi e c'è puoi pensare. Quando stai sulla cerca me c'ha il cuore. Non sei sola, sotto la cenere si sta svegliando. Quel calore ci scotterà. Sola, ma una luce ti illumina il cuore, essa ti dà la forza, quando pensi di non poterlo fare, scopri di avere un sentimento, che come un vento ti trascina via, scopri di avere un sentimento, che come un vento ti trascina via. When the city a go click clack, blow your bed. Government fingers and tic tac toes in it. And while they're working on the X's and O's, I'm living eye and eye like a Mr. Kamosi. No surprise when they sending foes to me. Oppositor when plain clothes approaching me. Follow the rules is what they propose to me. Selling their souls for what is old, you see. Nothing is old, nothing is promised. Never know the government would have run up in a them garrison. Without no sorry, without excuse. Soldier money not them lorry, everybody gets abused. And everybody have them views now. The media is owned, so know where you get your news from. And the blood up on them shoes now. When them walk in the trace, look them hard in them face and say, can't quantify. Why Rayan couldn't sanctify. Say enough of them, them sent to die. So the city a intensify. Say the ghetto them a gentrify. Well I, nobody no identify. Nuff bodies unidentified and just a lie de. Then where the gun de? Dead pan Saturday, buried Sunday. Like Solomon a gun de. Like a no sons of Solomon them have done de. Leonard Powell a pinnacle and them land de. Stop division, them deal it under and they. So learn it, cause them come back with them plan they. So tell me, how far do you wanna go now? Hey, cause them we rat ta ta ta ta when you pop out, pow, wow, wow, wow. Comes the danger sent by the savior. Welcome the Rasta youth. I and I start recruit soldiers for Selassie army. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youth. You're not for oxy's who at the general issue in a warning. Job people them a ball, said them tired of mediocre. Evil a go fall when we tried in Ethiopia. Me leaving from down, cause them life no easy boat. Even Bantan said it's not an easy road. Operation, occupy the motherland. Calling all soldiers to kind of chat along. From creation, he writing a job plan. But chronics can't do it alone. So I'm recruiting soldiers coming from near and far. I choose executing Selassie I works and me lost a far right truth. And them say here comes trouble, here comes the danger. Sent by the savior, welcome the Rasta youth. I'm gonna start recruit soldiers for Selassie I army. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youth. You're not for oxes who are the general issue in a warning boy. Waving the banner red, green and gold. It is such a honor prophecies unfold. Discovered on stones, on trees and scrolls. And even in the stories that Jesus told. Rasta youth must inherit the earth. Can't sit down, Jah Jah send me fi work. Bring the fire in a round, Jah Jah send me fi purge. But I can't do it alone. Rasta recruiting soldiers coming from near and far. I choose executing Selassie I works and be lost a far right true. Here comes the gunman world. In the night in black that world. Barrow slot at the toolbox pool. Magazine in at the toolbox pool. And he's watching as the days go by. And he's counting as his peers all die. Sleeping with the rifle across his chest. And so he never gets a good night's rest. And then he's cranky in the morning times, and more victims have to lose their lives. The community at twist and twirl, wishing that there wasn't in a gunman world. In a gunman life, he might not come home from work one night, so every minute matter, ignores advice from his weeping baby mother and child. That he won't win every game he plays, so she know he'll meet his end one day. Some juvenile will have to earn his stripe and have to take another gunman's life. What if a backstabber names his price? And how ironic if him dead from night. The amount of bullet where him put bomb boy, job description, kill and destroy. Oh yeah, oh yeah. Now tell me, is it worth it all? If one done rise, then our next must fall. Tell me, is it worth it all? Those sleepless nights and patrol roll call. Tell me, is it worth it all? One child smile while our next one ball. Tell me, is it worth it? Is it worth it? Is it worth it all? In the yard, fresh up out the lockdown, back up on the road. Who put in the work, a time for reap no reward. All who did encourage me, keep me in all them thoughts. My regards to you, hope for you the same. Bless you when you're out in the streets, I operate. Them to fly the gate, I met me drop in LA. Trinidad, I call, yeah, that I'm a family. Family is a word where me no really use so much again. Some among just wishing you harmony, man. Anything you intuition say you feel is in, cause you the wrong. No father, still I love you, see the older we they are defend. So you know we cleaning and we are no pretend. In a time of need, I really who can you depend? Are you alone? Always keep a smile. Blessed is the child. Safe in this wretched place, where they celebrate when you put your face. Just give me faith, beg you keep me patient, so I appreciate what they put my plate. I never seek no validation, go my ways, no participate. I never stray, keep my vision straight, so that's why you're not gonna see me with none of them. And then we take your fee, a fool, and then leave your fee. Things say, oh no, cool, but in them heart, them against. Careful how you move and who you choose to represent. Cause you don't know who I think. Still I love you, see the older we they are different. So you know we're clean in our way, heart, don't pretend. In a time I need, I really, who can you depend? Are you alone? Always keep a smile. Blessed is the child. Sometimes, but it's harder to be lonely, yeah. Would you rather to be lonely? Yeah. You gotta get to know me, yeah. Inna the place, dive up inna the Benz, yeah. Dip on the ends, vibes up you and your friends, yeah. All them a chat, I say I happened to them, yeah. All them a chat, I say them can't make no friend, yeah. Pull up again and pick up on this out end, yeah. Buy coconut and go rocky boat them, yeah. All them a chat, say we no worry about friend, yeah. Well, I know that we say I happened to them, yeah. You know I've got the time. Gonna come my way, and now we gon' get to play. It ain't worth denying, yeah. This was pre-designed, darling. I don't know what else to say, and this must be our destiny. I know it's hard to trust sometimes, but it's harder to be lonely, yeah. So would you rather to be lonely, yeah? No way. To give your heart, but you gotta get to know me, yeah. I said you gotta get to know me, yeah. From the other day, you take a liking to me, yeah. Know what me you liking to see. Okay, I wear my day, a day I like Clifford B, yeah. You prefer coffee and I like sexy tea, Even though you might blend the tree, me up in the mug, the other side sensing me, yeah. Can't handle you cause I ain't no licensee. Plus your body shot, you need a license to be, yeah. I know it's hard to trust sometimes, but it's harder to be lonely, yeah. No, would you rather to be lonely, yeah? No way. I know you're scared to give your heart, but you gotta get to know me, yeah. So do you wanna get to know me? Dancing to a reggae song. feel good, feel good. I feel good. Cause your perfume isn't loud, and only I can talk about. Feel good, feel good. You feel like velvet rubbing over my skin. And when your hair dances on my chin, wish we were alone, baby, just the two of us. Yes, every move you make gives me a rush. Oh, wine some more, show me that love unconditionally. Make believe we're alone, just you and me. Take the problems, leave them behind. Don't let it show. Go, baby, go, baby, go, baby, go, baby, go. I feel good when you're wrapped up in my arms, dancing to a reggae song. Feel good, feel good. I feel good. Cause your perfume isn't loud, that only I can talk about. Feel good, feel good. Hey, yo, yeah, mumo. Senta buono original, Giovanni Killa, che ha solamente per Fire from Babylon, sin. Big up Otello, k.a. Towali, big up Pietro, k.a. Osh. Yes, Emanuele, k.a. Smash, Ilario, k.a. Ailario. Yamu mo! Senta buono original, Giovanni Killa, che ha... Na na na na na na na na na na. Senta mo sta combinazione speciale. Na na na na na na na na na na. Gioma mo cucchi la chiata. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando sta cima se metti a. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fire from Babylon, bombo class. Vieni nella danza Kuzmash per sentire la buona vibra che dai Lario. Arriva e la potenza della musica che nessun modo mi limita. Ogni giorno mi stuzzica la voglia di cantare e ballare, esporre la mia lirica. Mo yamu, mo yamu, bene canisha l'amo. L'alba aspettavo, bene canisha l'amo. Senta buono original, fire from Babylon Champion Soul. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando sta cima se metti a. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fire from Babylon, bombo clap. Boom! Ogni guagliuna chi trova li senta. Ci piglia buono tutto e tutto quanto fomenta. Pur ogni femmina rimana contenta. Ho sabato occupata tu come palanca. Sì, sta musica ci è piaciuta. Come l'abbiamo sentita subito poi l'abbiamo amata. Poco dopo l'abbiamo conosciuta e imparata. Capita e rispettata. Tanto corona o super sempre conservata. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando sta cima se metti a. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fire from Babylon, bombo clap. Fire from Babylon, from Rome sound. Bad, bad sound, don't fear that no sound. Kill all idiot thing from sound, and the better know that. Now big up Tolali. And big up Ush, and big up Smash. And the man had no sound system thing, you see? So let her make her nice up the land, man. Run it! Oris! Sleepy Andy said that. Oh, fire! Oh, yeah, yeah, yeah. Whoa, ruling sound, yeah. I got it down sound. Skylarking, that is what I hear that sound quite to your sound killing, sound killing. That is what I fire upon Babylon, yeah. Taking you at the place. fire, bringing you a special fire. Can I help you? Old man could I never help you. You're begging you a 4-5 smash, begging you a LP smash. Can I help you? Dead man could I never help you. You're so if you all keep on playing, all those scratchy holes that I place, you will get 6 foot. Oh yeah, yeah. Toss them fire pan around ya, make them know what you do dance on. From the mic to the cemetery, you are very damn, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. And Mr. Hush, oh yeah, don't afraid of no sound, yo. Him rule them all. With a uptown and Mr. R downtown, to the east, west, north or south, fire pine road, kill them and come back alone. You pick him up, you lick him down, and bounce right back. Had something in every contest. Mr. Smash out of bed. Smash. Skylarking, skylarking. That is what drum and sound fight to your sound killing, sound killing. That is what Kowali do. Oh yeah, yeah. Yeah man, is a double champion. They fire upon Babylon. Me no know a better sound, article sound. Take her, fire from Babylon, not the bay. Watch come around, we'll tell her have no rest. Take her, when you hear this, that plate, fire from Babylon, mush it up in the no, no, take her, fire from Babylon, not the bay. Watch come around, we'll tell her have no rest. Take her, when you hear this, that plate, fire from Babylon, mush it up in the place. Mush it up. Well, you know what this your sound make you dance. Oh boy, me tell you why. Hey, come follow me, man. Now follow me, man. Now follow me, hey. Me tell you no, follow me pon the bush. Remember what the champion they tell me. We come from we fire pon Babylon. Hush make me feel like a judge, a soldier. We tell you make me feel like a Harriman soldier. Move your body from the legs to the shoulder. Fire pon Babylon, the ruling sound. Hush play that. Cause the girl them a bubble, article sound them a killer some bird. Take her, fire from Babylon, not the base. Watch come around, no tell her have no rest. Take her, when you hear this that blade, fire from Babylon, mush it up in every place. Take her, fire from Babylon, not the base. Watch come around, we tell her have no rest. Take her. Hey. Now take a pill, me say now take a pill. Fire pan Babylon, for the Babylon Hill. Come, Babylon Hill, me say Babylon Hill. F and in a the bash, we na kill feral. Come, what do you feel, me say what do you feel? Good vibration, violence, we na deal. Laugh is a will, me say laugh is a will. Turn and turn around from the top to the hill. Take two, fire pan Babylon, na the base. Watch come around, not a lot of no rest. Take her, when you hear this, that play fire pan Babylon, mash it up in every place. Take her, fire pan Babylon, and the bass. Us go my wrong, we'll tell her I've no rest. Take her. DJ Smash. Come follow me no man now, follow me no man now, follow me no, hey. Me tell me no, follow me pon the bush. Remember what the champion Italy. We come from we fire pon Babylon. Hush make me feel like a judge, a soldier. We tell you make me feel like a Harriman soldier. Move Smash. Your body from the legs to the shoulder. Fire pon Babylon, the ruling sound. Hush play that tune, cause the girl them a bubble. Article sound, them a killer sound.